stai? Domanda solita, non rispondermi. Se vuoi, con chi sei? Non ho diritto, certo, sono fatto. E a volte sai, ripenso un po' a noi. Dura sempre troppo poco il tuo sorriso. E la notte sento ancora sul mio letto un po' di te. Ora ritorni e in un'ora tutto si fa semplice. Ma in fondo sto dicendo che lui non mi ha stretto al petto quando piove, piove su di te. A volte ti stupisce, a volte legge Brian. E capisco che se tutto questo avesse un senso non impazzirei. A volte so che non riuscirei a sognare.